Perché adesso c'è questa battaglia tra Yanukovych e Yushchenko? Yanukovych fa parte del filo russo, Yushchenko fa parte del filo occidentale. Però questo non è problema tra Ucraina occidentale e orientale, c'è problema tra brogli elettorali. Perché, per esempio, ogni persona dà la sua voce e noi abbiamo informazione che circa 3 milioni di voci e ci sono brogliati. Allora, per quegli motivi e gente usciva nel piazza e manifestazioni. Il nostro Parlamento, anche oggi mattina, ha cominciato a lavorare su queste elezioni e loro lavoravano solo qualche ore, dopo si sono chiusi per fare insieme un documento generale su queste elezioni. Allora, il stampa locale dice che fino ad oggi purtroppo non c'è un documento principale tra due candidati per stabilire la situazione. E adesso ci sono tanti manifestanti che stanno vicino al Parlamento, che stanno vicino all'amministrazione del Presidente e il piazza di Indipendenza. Adesso è molto difficile dire qualcosa che sarà la reazione più avanti, purtroppo che anche Russia vuole guidare durante queste elezioni. Quando è caduto il muro di Berlino e dopo quando è caduto l'Unione Sovietica, Russia ci vuole, rinnovare questa imperia sovietica, e per quel motivo Ucraina, un paese più principale, senza Ucraina si può fare nulla, si può fare niente. Per quel motivo Putin adesso sta aiutando per questo candidato Yanukovych. Anche una cosa molto importante, che qualche giorno fa Premier Ministro insieme con questi governatori di 17 delle 25 regioni dell'Ucraina hanno fatto un fatto di separazione, cioè volevano creare un'autonomia. Però prima cosa, che questa roba è anticostituzionale; secondo, che questo loro non fanno per la Ucraina, per gente, quello loro hanno fatto solo per salvarsi in questa situazione. È una problema molto grave su questa separazione che loro hanno cominciato. Però oggi ho letto che quasi tutta Ucraina, anche da queste regioni, non vogliono fare questo.